Mega, Omega e l'Alfa si mischiano per fare una storia che non inizia né finisce, rimane lirica. Lirica facile come scrivere storia mitica su un foglio di carta. Pure lo spaccia, mi spaccia, il mio CD rimane una mia percezione di strada che rimane tra l'opinione pubblica. Non siamo mica solo da sotterrare la musica. Lirica è qualcosa di mitica che ti faccia o non ti piaccia, ti fa come una borraccia di codeina con la Pepsi ogni mattina. Rifaccio questa lirica come fosse una profezia o una bonus track di una minaccia fantasma che non verrà registrata dai radar. Traccia, spaccia, spacca, distruggi tutto e poi ammacca. Ogni circostanza va evitata, ogni critica superata. Beh, rimani qua col mio cuore che sa dilaniare per ore. Mi punto in testa un mitragliatore, fa. Non sono ancora morto e voi cosa vi dispiacete? Purtroppo la vita è questa qua, c'è chi vince e chi perderà. Il mio nome è scritto già su una tomba, c'è scritto da Dio al nome, ma sono mica un altro nome. In questa cosa io sono un campione, tu vatti a fare di metadone. Cazzo, è la mia crocefissione, non la tua. Cioè fra che si fanno di metano e vorrei dargli una mano ad uscirne, come con un chilo di pakistano free nelle loro mani per uscire da dolori anormali. Il metano è la cura perfetta, no, rimane la ganja libera. Purtroppo non c'è in Italia questa cura e rimane una sfiga oltre natura. Paura di morire da solo, sì, rimango qui con Steve McQueen, sanguinobili, come Steve McQueen, sanguinobili.